Ciao, buongiorno a tutte e tutti. Ciao, buongiorno a te. Sì, dunque, oggi ci sarà l'ultima udienza prima dell'estate. Le prossime sono state già fissate per il 18 e 23 settembre e poi per il 13 ottobre. Quindi oggi è l'ultima udienza prima della pausa estiva. Come rete di compagni e compagne che sosteniamo i 18 sotto processo con l'accusa di devastazione e saccheggio per i fatti del 15 ottobre, abbiamo indetto una semplice presenza in aula dopo il presidio della scorsa settimana, che eravamo una cinquantina di persone. Come potete capire, è difficile tenere i ritmi del Tribunale di Roma e della Procura, visto che oltre a questo il 15 ottobre c'è praticamente almeno un'udienza a settimana per altri processi, e quindi chi segue questa dinamica repressiva è veramente impegnato in questo periodo, per cui oggi ci sarà una presenza in aula per chiunque volesse partecipare al Tribunale di Roma in Piazzale Clodio, aula 9 della Palazzina C, piano terra. Alle ore 9 ci sarà l'udienza. La scorsa settimana è stata un'udienza piuttosto breve, ha parlato una testa della difesa più altri due testimoni rapidi alla fine, alcuni test non si sono ahimè presentati, per cui è stata un'udienza di nemmeno un'ora, 45 minuti circa. Insomma, si va avanti con la presentazione da parte dei test della difesa, anche oggi ce ne saranno altri e magari alla fine dell'udienza farò una nuova corrispondenza per raccontare com'è andata. Senti, soltanto due parole per ricordare o anche per far sapere a chi magari ci ascolta per caso e distrattamente, insomma, l'importanza e la pesantezza di questo processo. Questo è, diciamo, i capi di accusa sono gli stessi di Genova, di cui la radio giustamente tanto ha parlato, di cui tanto si è parlato in questi anni. Questa è la stessa identica cosa: ci sono 15 persone accusate di devastazione e saccheggio per i fatti del 15 ottobre del 2011, la manifestazione di indignados, come fu battezzata dai media di regime in quel periodo. La manifestazione, insomma, in cui penso molti si ricorderanno, ci furono una serie di azioni dirette, incidenti, una forte repressione della polizia, in particolare in quello di San Giovanni, in cui ci fu una risposta di centinaia e centinaia di persone. Ci sono stati già diversi filoni processuali, persone condannate fino al terzo grado per resistenza pluriaggravata. E poi c'è stato un filone che riguardava i compagni dell'azione antifascista Teramo, di cui 4 su 5 condannati fino all'appello per il reato di devastazione e saccheggio, e adesso c'è questo terzo e speriamo ultimo filone che riguarda il 15 ottobre, in cui ci sono 15 persone accusate del reato di devastazione e saccheggio e 3 persone addirittura per tentato omicidio nei confronti del carabiniere Fabio Tartaglione. Chi ricorderà il carabiniere che fuggiva dal blindato dei carabinieri in fiamme in quel di Piazza San Giovanni. Senti, se vuoi ripetere l'aula, appunto, per chi ci ascolta, se vuol partecipare alla presenza solidale in aula. Sì, la presenza, ricordo, è importante soprattutto sia per chi non ha mai assistito a un processo, comunque è importante vederlo, ascoltarlo con i propri occhi, che non è certo la stessa cosa di sentirselo raccontare, ma soprattutto perché alcuni dei compagni che sono imputati sono presenti alle udienze, chi è libero, chi si trova ai domiciliari, una delle poche occasioni per uscire di casa, e viene spesso, seppur scortato dalla penitenziaria, comunque viene in aula, e quindi è importante non lasciarli soli, far sentire la presenza dei compagni. Il tribunale ovviamente è quello di Roma, Piazzale Clodio, l'aula è l'aula 9 della Palazzina C, piano terra. Benissimo, noi per ora ti ringraziamo e insomma aspettiamo che ci chiamate per le notizie, insomma, su come si svolgerà la mattinata. Sì, grazie a voi. L'ultima cosa volevo dire, su uno dei comunicati di indizione della presenza di oggi ci sono tutti i numeri del conto corrente della radio, di Radio Onda Rossa, a cui si può sottoscrivere per la cassa 15 ottobre. Continuiamo a chiedere di farlo perché, oltre alle spese legali che sono tante, molti compagni si trovano ai domiciliari o con numerose restrizioni, hanno perso il lavoro in questi anni di processo e quindi noi cerchiamo di sostenerli anche con la cassa di solidarietà per le difficoltà economiche in cui si trovano. Certo, insomma, si può versare a Radio Onda Rossa sia sul conto corrente postale che quello bancario, sul sito si trovano tutte le coordinate, scrivendo nella causale 15 ottobre, oppure insomma anche sul sito della rete Evasioni si trovano tutte le modalità. Esatto, esatto. Continuiamo a chiedere sottoscrivere perché purtroppo insomma è necessario. Certo, e grazie ancora e a più tardi. Grazie a voi, ciao. Ciao.